in primo piano. Ebbene sì, perché ieri c'è stato il vertice finito a tarda sera tra Berlusconi e la Lega e sembra dai giornali che ci sia un'accelerazione verso la possibilità di un voto e dunque di un voto anticipato. Berlusconi e Bossi al Quirinale, questo è il titolo del Corriere della Sera. Repubblica, la Lega subito alle urne. Per la Stampa, Berlusconi Fini si tratta. Il Giornale, un leader da dimenticare. Indovinate chi è? Ovviamente per il Giornale Gianfranco Fini. Continua l'attacco mediatico del quotidiano di Vittorio Feltre. Per il Fatto Quotidiano, adesso per Fini si fa dura, pronta la vendetta del Caimano. Il Messaggero, Berlusconi vertice sul voto. Per Libero, elezioni, ultima chiamata, gara contro il tempo. Invece l'apertura del Sole 24 Ore dedicata al tema economico è uno sguardo sull'America per la ripresa economica. Obama punta sui trasporti, via il cantiere produttività, Bonanni lancia il modello pomigliano. Sono molte però anche le prime pagine dei quotidiani dedicate, una su tutti leggo quella dell'Unità, all'uccisione del sindaco Angelo Vassallo a Pollica, il sogno ucciso, e c'è il volto di Angelo Vassallo, il sindaco democratico che diceva no alla camorra. Vedremo poi, ci sono molti articoli, anche uno molto intenso di Roberto Saviano in prima pagina di Repubblica oggi su questo omicidio, molto presumibilmente di camorra, almeno nelle modalità. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti nelle prime ore. Io però, prima di andare a pubblicità e meteo, vorrei iniziare dalla coda, se si vuole. Vogliamo iniziare da non dalla politica, non dalle cose che poi svilupperemo dopo le 7.30, ma da quello che è il tema anche del nostro sondaggio, che oggi trova molto spazio sui giornali, ancora con commenti, devo dire, indignati, uno su tutti, quello di Oliviero Bea, sulla pagina di sport del Fatto Quotidiano, vale a dire il fatto che dopo la morte... Certo, si dice non in pista, questa è la scusa adottata, non in pista, ma avvenuta dopo, ma dopo un terribile incidente al pilota giapponese, al centauro giapponese Tomizawa, nel motomondiale di Misano, le gare sono proseguite. Sconfortanti lezioni di cinismo, questo è il titolo del commento molto duro di Oliviero Bea, l'indifferenza per la morte del giapponese Tomizawa, una tendenza ipocrita e desolante, nessuno si ferma in pista e sulla stampa. Perché Oliviero Bea se la prende anche su questo. Avrete capito che sto quasi divagando per ritardare lo strazio. Parlare di quello che è successo domenica a Misano nel motomondiale mi fa ancora effetto, quasi fossi lì mentre avveniva. Mi fa effetto? Mi fa vergogna. Ebbene sì, corsa interrotta, ma non scherziamo. Per un morto, supposto o temuto, ci mancherebbe altro. Uno che resta in classifica sulla Gazzetta dello Sport a strappare il cuore il suo nome, settimo. 82 punti. Rileggetevelo, andatevelo a cercare. È morto. E il titolo più vistoso della Gazzetta, il quotidiano degli sportivi, era invece cubitale. Maradona, Napoli, arrivo. Per i suoi 50 anni è in piccolo, morte in pista. E a fianco il commento, ma un gesto serviva. No, scusate, serviva semplicemente un titolone alla Maradona. Vergognatevi. Ma non solo Oliviero Bea, oggi la morte di Tomizawa si tinge di giallo addirittura per il Corriere, anche per la stampa, cioè a capire quando è morto veramente, il sospetto addirittura, clamoroso, c'è stata un'inchiesta che è stata aperta, lo scrive anche la stampa, che Tomizawa sia morto pochi minuti dopo l'incidente, già quasi quando era in ambulanza all'interno del circuito. Qualcuno molto cinicamente dice l'hanno fatto morire e risuscitare 10 volte, perché? Pur di ritardare l'orario della sua morte, perché dire che era morto in pista o poco dopo avrebbe causato appunto l'interruzione per regolamento delle gare. C'è anche un Giacomo Agostini che, vi ricordo, sarà nostro ospite alle 8.30, tra i nostri ospiti. Giacomo Agostini, grande campione, ha vinto tantissimi mondiali tra gli anni 60 e 70, è uno dei più realisti e dice in un'intervista al Giornale: altro che cinismo, non facciamo gli ipocriti, tutti i piloti sanno che possono morire, così capita anche in altri mestieri. Semmai è stato giusto tenere un tono basso durante le cerimonie, niente champagne, bandiere a mezz'asta. Quando morirono Pasolini e Saarinen nel 73 ho pianto 2 giorni, ma poi mi sono detto è successo a loro, non succederà a me, per tirarmi su. E questo vale per ogni cosa. Quando cade un aereo non si chiudono gli aeroporti e chi deve partire parte. un'assurdità fermare le corse per Giacomo Agostini? Come la pensate? Era giusto fermare le corse? Noi vi chiediamo nel nostro sondaggio. Tomizawa è morto, le gare sono proseguite nel moto mondiale, è stato giusto così? Votate su radio24.it. Voglio solo derubricare tutte le polemiche che troverete, giusto per partire anche dalla coda, sul Festival del Cinema di Venezia. Abbiamo sentito anche la nostra Marta Cagnola e la voce di Michele Placido. Incredibile, con Michele Placido, che fa un film, sarà un bravo regista, ma dice, lo devo dire, una puttanata come quella. Ha detto che in Parlamento ci sono gente peggiore di Vallanzasca, che ha ucciso a sangue freddo delle persone. Per Placido ci sono persone che hanno fatto di peggio e che siedono in Parlamento. La cosa che più mi ha sconvolto non è stata la, lo dico due volte e poi basta, la puttanata di Michele Placido, è che avete sentito un applauso scrosciante a questa frase di Michele Placido. Ma trovate anche questo molto sui giornali. Che dire, pubblicità e meteo, e poi ripartiamo dalle prime pagine, quelle intense, la politica. In primo piano. Quando sono le 7:35 minuti, eccoci ancora qua, cari ascoltatori. Abbiamo, vi ricordo dunque il nostro sondaggio che state già votando su radio24.it, la morte del pilota Tomizawa e le gare che sono proseguite al moto mondiale, scelta giusta. Votate lì, ne parleremo poi alle 8:30, come abbiamo visto prima della pubblicità, è un tema molto seguito dai giornali. Ma buttiamoci, tuffiamoci nella politica, che ieri ha avuto un'accelerazione sicuramente con il vertice tra Berlusconi e la Lega ad Arcore, vertice fino a tarda serata. Berlusconi frena Bossi sul voto subito, questo sul Sole 24 Ore. Barbara Fiammeri ricorda come il premier e il leader leghista vogliono andare comunque da Napolitano. Questo è il comunicato congiunto che è stato fatto al termine del vertice. La linea è dunque quella, quella di andare da Napolitano per dire, scrive Barbara Fiammeri, Fini è ostile e di parte, si deve dimettere. Pare che all'orizzonte ci sia appunto uno scontro politico ormai inevitabile. Questa è la lettura di tutti i giornali. Stefano Folli, in prima pagina del Sole 24 Ore, dice difficile il patto di legislatura, mentre probabile il logoramento. Se fosse davvero attuato, il patto di legislatura proposto da Fini a Mirabello aiuterebbe la politica a uscire dalle sabbie mobili. Potrebbe perfino risultare utile al Paese. Ma quante probabilità ci sono che un simile accordo a medio termine trasparente e leale venga siglato, soprattutto rispettato dalle forze di maggioranza? Ben poche, scrive Folli. Il presidente della Camera è stato abile a proporlo nel momento in cui scatenava il suo duro attacco a Berlusconi, ma tradurre in pratica l'ipotesi del patto è molto più difficile che stiracchiare la legislatura ancora per un po', alimentando la scia infinita dei rancori reciproci. Insomma, Folli nel commento, che poi continua a pagina 5, dice certo sarebbe ideale riuscire a trovare questo patto di stabilità, ma è chiaro che invece lo scenario più probabile è quello di un logoramento, tanto che chi sta accelerando moltissimo e ha ribadito bisogna votare subito è ieri la Lega, forte probabilmente anche dei sondaggi. Il leader della Lega Umberto Bossi sa che votando subito probabilmente la Lega prenderebbe un pieno di voti come l'ultima votazione. Addirittura Bossi dice si può fare già a novembre, ed ecco allora che anche secondo il Foglio, nel commento in prima pagina, Berlusconi ancora non sa cosa fare. Ascolta chi lo sconsiglia di accelerare verso una perigliosa crisi di governo, ma pensa pure, per usare un eufemismo, che consegnarsi nelle mani di Fini non sia la migliore delle soluzioni. Così, mentre lo Stato Maggiore del PDL è attraversato da una profonda crisi confusionale, la Lega si mette in mezzo a complicare ulteriormente il quadro, con Umberto Bossi che a poco meno di un mese da quel 19 agosto in cui per la prima volta terremotò l'attendismo del Cavaliere, dicendo al voto in autunno, è ritornato a invocare le urne. Gli scenari politici sono molto aperti. Certo, ormai pare che dalle letture dei quotidiani non sia più questione di se, ma di questione di quando si andrà a votare, cioè i margini per una ricomposizione dopo il discorso di Fini a Mirabello sembrano davvero risicati, tanto che Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, nell'analisi politica pagina 3, dice che e scrive che per Berlusconi l'obiettivo sono proprio le dimissioni di Fini, non tanto la crisi, non le elezioni anticipate. Questa sarebbe la linea anche del comunicato congiunto con la Lega, cioè andare da Napolitano nei prossimi giorni al Quirinale per delineare questo scenario in cui si vede un presidente della Camera non più allineato a livello politico. Circola addirittura anche l'ipotesi di che cosa? L'ipotesi di un Aventino senza precedenti con la maggioranza che possa disertare i lavori della Camera, le commissioni, le riunioni dei capigruppo, addirittura l'aula, cioè la maggioranza che faccia un Aventino. La tentazione dell'Aventino per il Corriere della Sera sarebbe un inedito, certamente una decisione senza precedenti. Mentre secondo Repubblica lo scenario ipotizzato da Francesco Bei è questo: Berlusconi vuole andare alle elezioni, ma deve costruire la strada per arrivarci, e soprattutto una strada iniziata già ieri sera nell'incontro con i leghisti, ma soprattutto la colpa, questa è la linea del Premier, la colpa deve ricadere solo su Gianfranco Fini. Se si deve aprire la crisi, scrive Francesco Bei riportando il solito virgolettato ipotetico di retroscena attribuito a Berlusconi, se si deve aprire la crisi deve essere nel momento che conviene a noi, sull'argomento che abbiamo scelto noi, e bisogna che sia Fini ad assumersene la responsabilità. E dunque già i cronisti parlamentari vanno a sfrucugliare quello che potrebbe essere l'incidente da creare in Parlamento. Su che cosa? Sulla giustizia? Sugli immigrati? Sapete che Fini ha spinto molto, per esempio, per questa legge che velocizzi le pratiche, riduca i tempi per le pratiche di ottenere la cittadinanza per i figli degli immigrati. Sulle questioni etiche, Bossi questo agosto ha sempre spinto, quello lì riferito a Fini vuole i matrimoni gay, no? Sapete che questo è uno dei temi, le leggi sulle coppie di fatto, i finiani con Della Vedova sarebbero per un'apertura, un allargamento alle coppie di fatto. Insomma, si cerca, secondo qualcuno, l'incidente che potrebbe scatenare un voto in cui la maggioranza va sotto. Insomma, ci sono delle procedure, non è che uno può dire si va alle elezioni così, ci sono delle procedure costituzionali che devono essere rispettate. Ma certo, lo scenario ipotizzato ripete questo: da una parte chi spinge al voto, i leghisti, dall'altra parte chi, e secondo il Corriere soprattutto è Gianni Letta, che sta cercando di evitare lo scontro istituzionale, quindi alcuni all'interno della maggioranza che dicono no, non acceleriamo verso le elezioni perché è un salto nel buio in cui sicuramente la Lega vincerà, ma poi tutto il resto poi è da delineare. Lo stesso Letta, scrive infatti Francesco Verderami sul Corriere, ha dovuto fare un passo indietro dopo aver spiegato a più riprese in questi due anni al Cavaliere che il tuo problema non è Fini ma la Lega e Tremonti. È nota infatti l'altalenanza dei rapporti tra Berlusconi e il suo Ministero dell'Economia, che secondo il Premier fa 10 parti in commedia. Così si è sfogato raccontando Gianni Letta del suo fallito tentativo di agganciare i centristi alla maggioranza. Cosa avrebbe detto Gianni Letta? Prima Giulio Tremonti ha scatenato la Lega contro un accordo con l'UDC, poi mi ha detto che il rapporto con Casini, se fosse necessario, lo recupererebbe lui. Dunque riaffiora mai sopito, come dire, il rapporto Berlusconi-Tremonti. Ancora due sguardi di politica per Fini scarica Berlusconi, è il titolo del quotidiano La Padania. Leggiamo anche e teniamo d'occhio sempre i quotidiani politici di partito, perché in questo momento della legislatura sono ovviamente una cartina di tornasole importante da vedere, con Bossi che dice incredibile, non è stato Berlusconi a scaricare Fini ma il contrario, vedete, quindi La Padania che spinge per una rottura. E poi il PD. Il PD lo trovate in varie discussioni, il gelo sull'alleanza PD Di Pietro, quindi torna la questione, il PD deve stare con Di Pietro oppure no. Per il fatto, il PD è accerchiato. Si racconta in questo articolo di Stefano Caselli a pagina 5 alla festa del PD a Torino, quando un turista arriva e dice: scusate, la festa di che partito? Un turista spagnolo, il PD. E che partito è? Di destra o di sinistra? Ecco, questa battuta emblematica viene colta dal Fatto per dire: ecco, quando il PD capirà cosa vuol fare da grande, forse i turisti spagnoli capiranno dove si trovano. Tanto che è tornato graffiante Riccardo Barenghi, la Iena, dopo le vacanze sulla Stampa, il PD non c'è più. Anzi, il PDL non c'è più, il PD purtroppo sì. Oh, io vorrei lasciare la politica e leggere un articolo che appare oggi a pagina 7 dell'Unità. Gli scampi davano soddisfazione, ora se ne trovano sempre meno. Il tonno è il più difficile perché lotta fino alla fine, mentre la spigola è la più intelligente e furba, non la trovi mai nelle reti. Ah, e poi c'è l'alice. Quest'anno è stata una buonissima annata di alici, tanto da attirare molti pescherecci, addirittura dalla costiera napoletana. Le alici sono intelligenti, hanno deciso di soggiornare qui da noi, dove il mare è pulito. Stamattina sono per mare, dalle 5. Ho preso due aragoste, le porto a mio figlio che ha un ristorante qui in paese. Noi siamo legati al nostro territorio, abbiamo coscienza del nostro territorio. I cittadini hanno capito che è la nostra prima ricchezza. Basta guardare al porto. Lo abbiamo ristrutturato e messo a porto noi. Eppure, alla fine, il proprietario è lo Stato. Noi abbiamo fatto mutui per 40 anni, investiamo, costruiamo per arricchirlo, ci lavorano tanti nostri giovani e lo Stato cosa fa? Addirittura nell'assegnazione delle banchine lo Stato preferisce i privati che si arricchiscono e non ci lasciano neanche un euro, mentre il comune, coi soldi che guadagna dalle concessioni, riesce a mantenere queste strutture e perfino a destinare una parte dei guadagni nei servizi per i nostri cittadini. Abbiamo costruito un caffè letterario nel paese più piccolo, abbiamo realizzato un lungomare pedonale a Pioppi, dove altrimenti la gente non sapeva nemmeno dove incontrarsi. Stiamo costruendo un centro nautico che gestiranno dei ragazzi disabili. Posso dirlo? Questa è un'amministrazione di sinistra, ma noi siamo leghisti. E speriamo veramente che la Lega sappia risolvere questi problemi, il decentramento, la riforma delle autonomie locali. Riteniamo necessario che gli interessi dei cittadini siano curati dall'ente a loro più vicino, il comune, che riesce a intercettare i loro bisogni e le loro necessità. L'Italia siamo noi, la somma dei comuni. Il danno della politica a livello nazionale è che non conosce i territori, non sa più ascoltare. Noi non vogliamo niente dallo Stato, ma almeno ci lasci le nostre cose. L'autore di quest'articolo è il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, che ieri è stato ucciso, molto presumibilmente dalla camorra, con 9 colpi di pistola. In primo piano. Era chiamato il sindaco pescatore, ho letto l'articolo che oggi l'Unità Repubblica era abituato a scrivere ogni tanto, anche sull'Unità. Angelo Vassallo, sindaco di Pollica in provincia di Salerno, ucciso probabilmente dalla camorra, 9 colpi di pistola, ucciso per un no di troppo. Così muore un italiano, è anche la prima pagina del Manifesto, con la foto proprio di Vassallo seduto tra l'altro su una rete da pesca. Aveva tolto il porto ai privati, combatteva l'abusivismo e le speculazioni, sosteneva Slow Food, non gradiva nemmeno le cicche di sigaretta per strada. Angelo Vassallo, sindaco pescatore di Pollica nel Cilento, era il simbolo di un'altra campagna possibile. Dava fastidio, è stato massacrato. E la lettura è unanime. C'è anche una bella intervista che vi segnalo a Raffaele Cantone, che oggi è magistrato di Cassazione ma che per anni ha combattuto, è stato uno dei magistrati dell'antimafia di Napoli in prima linea contro i casalesi, e che in un'intervista al Corriere della Sera parla proprio di linguaggio tipico della camorra: 9 proiettili sparati attraverso il vetro della macchina. La camorra uccide così, proprio per un no. E anche Roberto Saviano in prima pagina di Repubblica fa un lungo articolo che poi continua all'interno: scandalo della democrazia, 2 pistole che sparano, le pallottole che colpiscono al petto, un agguato che sembra essere un messaggio. Così uccidono i clan, così hanno ucciso Angelo Vassallo, sindaco di Pollica in provincia di Salerno. Si muore quando si è soli, e lui si opponeva alle licenze edilizie, al cemento che in Cilento dilaga a scapito di una magnifica bellezza. Ma Angelo Vassallo rischia di morire per un giorno soltanto e di essere subito dimenticato. Come se fosse normale, fisiologico, per un sindaco del Meridione essere vittima del clan. E invece è uno scandalo della democrazia. Del resto, si dice, è così che va nel Sud, accade da decenni. Veniamo messi sulla cartina geografica solo quando sparano, quando si deve scegliere dove andare in vacanza, mi dice un vecchio amico cilentano. italiano. In questo caso le cose coincidono. Inizia così l'analisi. Amministratori sono sotto assedio, la sfida, la democrazia che si gioca nel nostro sud, che Roberto Saviano scrive su Repubblica, nella quale poi attacca anche molto duramente Luigi Cesaro, attualmente presidente della provincia di Napoli, arrestato nell'84 nell'operazione contro la nuova camorra organizzata di Cutolo, nell'85 condannato a 5 anni di reclusione, poi assolto in appello e in Cassazione, decisione confermata dal noto giudice ammazza sentenze Corrado Carnevale. Ma, come ha raccontato l'Espresso, nonostante Cesaro sia stato scagionato, gli stessi giudici che lo hanno assolto hanno stigmatizzato il preoccupante quadro probatorio a suo carico. Tutto questo, scrive Saviano, non si può tacere e chi lo tace è complice. Un'analisi di Roberto Saviano che certo farà anche discutere, la trovate su Repubblica, ma trovate davvero ovunque. Addirittura l'Unità, il Manifesto vi dedicano l'apertura di prima pagina, ma anche il Quotidiano Nazionale, il Sindaco Martire, e c'è la foto di Angelo Vassallo, un'intervista alla Stampa di Carlin Petrini, il presidente di Slow Food, che lo conosceva molto bene proprio perché coniugava questo primo cittadino, oltre al suo dovere istituzionale, anche la sua passione, come abbiamo sentito anche nell'articolo pubblicato dall'Unità, la sua passione per il legame con le ricchezze del territorio, in questo caso il pesce, ovviamente, il sindaco pescatore. Voglio andare velocemente. Può in un paese come l'Italia non aumentare la polemica sui giornali dopo quello che è successo al Campiello, che io ho citato in velocità, ma ieri c'è stata una strepitosa zanzara, insomma, con anche Michela Murgia, la vincitrice del Campiello, che ha detto: Bruno Vespa, presentatore del Campiello, ha fatto un apprezzamento da vecchio bavoso nei confronti di Silvia Avallone, scrittrice giovane di Acciaio e che era presente anche lì, premiata anche lei al Campiello. La frase di Bruno Vespa è stata: quando ha invitato sul palco l'Avallone, per favore inquadrate lo spettacolare décolleté della signorina. Non l'avesse mai fatto. Michela Murgia si è infuriata. Oggi scrive un'intera pagina sul Fatto, il senso di Vespa per le tette. Di Michela Murgia: se siete donne o uomini non importa, perché il gioco di ruolo che vi propongo si può fare comunque. Provate a immaginare di essere un giovane scrittore talentuoso, aver scritto un bel libro. Il vostro valore letterario è tale che vi assegnano addirittura un premio Campiello. Immaginate di mettervi un bellissimo smoking e poi la presentatrice vi chiama a salire sul palco per premiarvi, mentre voi emozionatissimo fate le scale e questa dica: ecco il vincitore, prego la regia di inquadrargli la strepitosa patta dei calzoni. Questo è quello che esattamente ha fatto Bruno Vespa a Silvia Avallone. Ovviamente indignata. Poi la Michela Murgia: è impossibile non vedere le analogie tra la naturalezza con cui Vespa ha domandato l'estensione fisica della Avallone all'occhio della telecamera alle frasi di Silvio Berlusconi e Rosy Bindi. Insomma, si arriva sempre a Berlusconi. Oggi Bruno Vespa prende carta e penna e scrive sdegnato a Repubblica: caro direttore, mettiamoci d'accordo, una donna brava e intelligente, qualunque lavoro faccia, può essere bella senza pagare pegno? Se valorizza con l'abbigliamento la propria avvenienza, le si può rivolgere un complimento garbato? È quanto ho fatto a Silvia Avallone, dicendo che aveva uno splendido décolleté. Il mio apprezzamento era così inopportuno che la stessa Avallone ha detto che non l'ha nemmeno notato. Insomma, poi sì, contro Gad Lerner, che è invidia, e poi potranno farsi un libero convincimento chi chiede informazioni su Gad Lerner, su chi tra noi due rischi di diventare davvero un vecchio bavoso. È qui l'accusa gravissima di Bruno Vespa. Allora, il vecchio bavoso è Bruno Vespa o Gad Lerner? Vi lascio con questa inquietante domanda.